Benvenuti di nuovo al corso con l'El Torah a Roma. Ora studiamo Halakha, proseguiamo sul percorso della Kashrut, in particolare carne e latte. Oggi vediamo esempi specifici, situazioni che possono essere abbastanza comuni. Spesso ricevo delle domande riguardo queste situazioni. E quindi qui abbiamo qualche spiegazione e qualche risposta. Allora, su questa pagina noi siamo al penultimo paragrafo e la situazione è la seguente. Tavshil stami, parve, una pietanza parve, quindi non è né di carne né di latte, shenit bashel besir besari, che però è stata cotta in un tegame o una pentola che è di carne. Anche qualora questa pentola non dovesse essere totalmente pulita, cioè forse ci era qualche residuo di grasso di carne, quindi afilu lo haya asir naki lachalutin mishamnunita basar shebushalbo, dal grasso non era totalmente pulito necessariamente, ma la pietanza stessa è parve. Mutar le chol mi ad acharav ma chalei chalav. La persona che ha mangiato la pietanza di parve cotta nel tegame di carne può mangiare dopo di latte. Lui non diventa di carne, cioè lui non deve aspettare 6 ore adesso prima di mangiare il latte o latticini. E la stessa cosa al contrario, vehu adin, la stessa cosa si applica, la chilat tavshil parve. Se uno volesse mangiare una pietanza parve che è stata cotta in un tegame di latte, shebushal besir halavi, e tu hai appena mangiato la carne, cioè tu hai mangiato la carne, ok? Hai mangiato di carne, ora vuoi mangiare uno spaghetto aglio, e non dico aglio perché è una cosa kharif, ne parliamo dopo, uno spaghetto al pomodoro, che è stato cotto in una pentola di latte, però lo spaghetto è parve, tu puoi mangiare quello spaghetto. Tu sei di carne, la pietanza è parve, è stato cotto in un tegame di Come latte, tu lo puoi mangiare. anticipato all'ultima lezione, anticipato un concetto Sì, simile. ora vediamo. Ma'achal stami parve kharif. Se il cibo parve è kharif, kharif, chissà cosa vuol dire kharif. Kharif letteralmente in ebraico moderno significa piccante, ma alachicamente è un'indicazione di cibi che hanno un gusto forte, non solamente piccante, come per esempio cipolla, limone, aglio e così via, ovviamente anche il piccante Pepe. stesso, peperoncino, eccetera. Pepe è una spezia, Va è bene. diverso, parliamo del cibo stesso. Se un cibo kharif, un cibo che rientra in questa designazione piccante, per così dire. È stato cotto, shenit bashel besir besari, che è stato cotto in, di nuovo, una pentola di besari, di carne, ma non c'è la carne. La pentola è la pentola di carne, ma non c'è la carne stessa. Mutar lechol acharav miyad machalei chalav. La persona può mangiare successivamente anche cibi di latte. Ok? Perché cosa c'è di diverso rispetto a quello che abbiamo detto prima? Perché, come vedremo, il kharif fa nascere delle situazioni più rigorose. In generale, bisogna capire che la contaminazione, tra virgolette, tra carne e latte o tra elemento permesso e vietato, eccetera, esiste quando c'è il calore. Qualora ci fosse un contatto a freddo, allora bisogna assicurarsi che non ci sia residuo e gli elementi rimangono kasher. Ma il contatto a caldo fa sì che ci sia una vera e propria contaminazione, quindi un passaggio, un assorbimento di uno all'altro e viceversa, e di conseguenza la cosa potrebbe diventare vietata. In generale, il kharif, cioè ciò che è designato sotto l'aspetto alachico, il senso alachico di piccante, è considerato come se fosse un contatto a caldo, anche qualora fosse freddo. Il kharif è quasi sempre uguale caldo. Quindi qui noi stiamo dicendo, nonostante fosse kharif, il cibo parve che tu stai mangiando, che è stato cotto in una pentola di carne, tu puoi comunque mangiare il latte dopo. Ok? Dove è invece il limite? Se uno ha mangiato proprio di carne, ochel basar mamash, uno che mangia proprio la carne, yesh ha osrim lo, c'è nella comunità dei poskim, dei decisori di Halakha, c'è chi dice è vietato per questa persona che ha mangiato la carne, le'echol le'achar miken, mangiare successivamente, ma'achal parve harif, un cibo parve harif, piccante, che è stato cotto, shenit bashel besir halavi, che è stato cotto in una pentola di latte. Cioè, tu hai mangiato proprio di carne. Prima parlavamo di uno che mangia parve. Ma se tu hai mangiato proprio di carne e ora vuoi mangiare qualcosa di parve che è harif, che è stato cotto in una pentola di latte, allora noi consideriamo, secondo alcuni, quell'elemento harif come se avesse acquisito lo stato latte della pentola. O afilu ma'achal harif tzonen, o di nuovo anche se fosse harif freddo, perché abbiamo detto il harif è considerato caldo anche quando è freddo, tra virgolette, che è stato tagliato besakin halavi, se fosse stato tagliato con un coltello di latte ed è un limone, quindi è harif. E la imken imtin ben time sheshot. Secondo alcuni bisogna aspettare 6 ore prima di mangiare quell'elemento harif che è stato cotto nella pentola di latte o tagliato con il coltello di latte se è harif. Al contrario, nel prossimo comma, ma'achal harif, un cibo harif, quindi piccante, che con limone, per esempio come il limone, kadomè o simile, Shenechtach besakin besari, che è stato tagliato con un coltello invece besari di carne, anche se questo limone stesso è vietato usarlo per condire qualcosa di latte o mangiarlo con qualcosa di latte, perché acquisisce fino a un certo punto lo status carne, essendo stato tagliato con un coltello di carne ed essendo un elemento harif, quindi non lo si può usare, afshe assur leochlo, non lo si può mangiare o levashlo o cuocere. In halavo gvinah, scusate, con latte o derivati, quindi latte o latticini, mikol makom, tuttavia, en tzorech be'amtanat 6 ore beino lebein halavi. Tuttavia, se tu mangi questo limone tagliato con un coltello di carne e che questo limone non lo puoi usare direttamente con il latte, tu però puoi mangiare il latte. Tu non diventi di carne. Chiara la distinzione? No. Il limone stesso è come se fosse di carne e quel limone tagliato con il coltello di carne non lo puoi usare per condire la mozzarella, per esempio, o un Una piatto questione di è latte. contaminato. È contaminato, ma non è contaminato fino al punto di renderti a te di carne. Quindi tu adesso puoi mangiare la mozzarella. No, se Sì, ho... ma se non l'ho usato il non limone, devi aspettare 6 ore. se non l'ho No, usato il no, no. limone tagliato. Che vuol dire non l'hai usato? No, ha detto Stiamo che non parlando lo se... posso usare se l'ho tagliato col coltello di Allora, carne, tu non hai lo preso un posso usare. coltello di carne e hai tagliato un limone E non lo posso usare e hai con... mangiato un questo limone. Ah, è tagliato da... Ah, ho capito. Tagliato con un coltello Di di carne. carne. Però l'ho mangiato, questo è il discorso. Ovvio che l'hai mangiato. È consumato. Quindi Mangiandolo tu non diventi di carne. Tu puoi mangiare poi di latte, ma quel limone stesso, il pezzo che è rimasto, non lo puoi non lo usare posso usare sul latte. su Posso un mangiare il elemento di limone, ma non lo latte. posso utilizzare per condimenti. Esattamente. Puoi mangiarlo e non diventi di carne, Non ma ne non puoi posso. usare il limone stesso tagliato col coltello di carne per qualcosa che è di latte. Cioè, se io però prendo una verdura cotta col parve e ho Sì. tagliato col coltello della carne il limone, va bene, e spremo il limone sulla verdura che ci mangio il latte, si può fare? No, non No, puoi non mangiarlo posso insieme al farlo. latte. Adesso no. Quello che abbiamo detto Perché prima. ormai il coltello è stato contaminato dal limone. No, il limone è stato Eh sì, contaminato dal coltello. vabbè, Ok, prossima situazione. Beitza beklipata. Uovo sodo, ovviamente cotto nella sua clipà. No, no. sodo. Nel suo guscio. Nel suo guscio, l'uovo nel suo guscio cotto, che è stato cotto dentro una pentola di carne. Per esempio, molti usano Shabbat, lo stracotto, il ciolento, la dafina che si fa per lo shabbat e si lascia tutta la notte sul fuoco, molti ci mettono dentro le uova, che poi diventano sode ovviamente nel corso dello shabbat e si mangiano con la carne, con quello che è. Allora, per esempio, o comunque qualsiasi situazione dove c'è un uovo sodo cotto dentro una pentola di carne, allora è stato cotto nella pentola di carne, tu lo tiri fuori, lo lavi, togli il gusto, dici va bene, adesso l'interno dell'uovo stesso lo posso mangiare con il latte? No, assolutamente no, non lo puoi mangiare con il latte. Ma non solo non lo puoi mangiare con il latte, quando mangi quell'uovo devi aspettare 6 ore. Perché quello è proprio come se avessi mangiato di, come se avessi mangiato di carne. Ok? Cioè, non perché se lo cucini non è impermeabile. No, ma se lo cucini comunque insieme alla carne. Esatto. Chiaro. Invece l'uovo messo sopra, caso ipotetico, sopra il coperchio, non all'interno della pentola, e si è cotto dal vapore, e allora si è cotto dal calore della pietanza che sta cuocendo dentro la pentola, mutarle ochla im chalav, quell'uovo lì si può mangiare insieme al latte addirittura. Però ti faccio una domanda diversa. Anche se è meglio evitare, però è permesso. Rav, una cosa importante. Sì? Domanda. Se allora, noi adesso abbiamo il guscio, tra parentesi, poi mangiamo l'uovo. Se noi prendiamo tutto l'uovo, dopo che appunto è stato magari cotto con il vapore della carne, e lo mettiamo in un piatto insieme al guscio, perché ancora non ho sbucciato, dove c'è halav, si può fare o no? Poi lo mangiamo l'uovo successivamente. Però che succede se io... Cosa succede se c'è il guscio o no? Ah, il guscio ho capito. È stato contaminato, poi l'uovo abbiamo detto possiamo mangiare, però in realtà il guscio protegge l'uovo. Allora la domanda è se il guscio può essere messo su un piatto di latte insieme magari alla pietanza di latte. In realtà insieme è il guscio che è il problema. Il calore è anche il guscio, non è solo il guscio. È una buona domanda. Può darsi che può darsi che non lo puoi mettere col guscio sul latte, anche se è cotto dal vapore, probabilmente devi togliere il guscio. Per questo dicevo, io non posso appoggiare un latte. Cioè prima di appoggiarlo sul latte. Anche perché il concetto del vapore che è il calore. Ok. Prossima situazione, ma'achal stami parve, un cibo di nuovo parve, shebushal che è stato cotto, besir besarin aki, che è stato cotto questa volta in una pentola di latte però pulita, e non solo pulita, quello che è considerato pulito alachicamente, due cose, uno che non c'è residuo e secondo che nelle 24 ore precedenti non è stato usato per la carne. Che questo fa sì che se ci fosse del sapore rimasto, quel sapore non è più considerato un sapore valido, positivo, che rende migliore ciò che viene cotto, che rende migliore ciò che viene cotto. Quindi, totalmente pulito, quindi non c'è residuo, e anche se lo bushalbo bemeshe chestrin barbashota not, non è stato cotto in quella pentola della carne nelle 24 ore precedenti, o non è stato usato proprio nelle 24 ore precedenti, mutar le ochloi machalei halav, quel cibo parve che è stato cotto lì lo posso mangiare con il latte. Esempio, cuocio la pasta, preparo la pasta in una pentola di carne che non è stata usata in 24 ore ed è pulita chiaramente, questa pasta la metto sul piatto e sulla pasta metto il parmigiano, no problem. Questo anche per gli ashkenaziti, che in certi contesti è più rigoroso. Adesso vediamo. Kolzot, questo però a condizione che, bitnai, shen batavshil davar harif, che qui in questo piatto non c'è qualcosa che è harif. Cioè se io ho fatto soffriggere l'aglio o ho messo il peperoncino, allora assume... è considerato un discorso di contaminazione che prende, fa uscire fuori il sapore della carne della pentola, e quindi in quel caso non posso mangiarlo direttamente con il parmigiano sopra. Io non divento di carne, ma non posso mangiarlo direttamente con il latticino o il formaggio, quello che è. Cioè il harif rivitalizza tutto. Il harif rivitalizza, esattamente, esattamente. Domanda pratica, sì. Una crostata che viene usata praticamente per due pasti, uno per la carne di un giorno, all'indomani perché c'è un pasto di latte. Ok, quindi tu vuoi usare una crostata come dolce, sia per oggi quando mangi la carne, poi lo metti in frigorifero, o vuoi tirarlo fuori domani quando mangi il latte. Ok? A monte, la cotta. Aspetta, sentiamo la domanda. Il coltello con la quale taglio la crostata, posso usare... Allora, teoricamente tu dovresti usare, come per il pane, un coltello parve. Usa il coltello del pane, per esempio. Tu usi il coltello parve, poi lo metti a tavola, quella parte che vuoi usare quel giorno, e la crostata rimane parve e usi per domani l'altra parte. Invece che l'ho tagliata con col coltello della carne. Ma non diventa di carne. Se il coltello è pulito, non a posteriori, ne abbiamo parlato l'altra volta quando abbiamo parlato del pane. Non diventa di carne. Uno taglia il pane con quel coltello, può tagliare perché no? Sì. Ma se tu stai dicendo una cosa importante, se io dentro il forno ci ho cucinato carne. Ok, questo parleremo più avanti del discorso del forno. Qui invece concludiamo un altro aspetto. Se tu hai cotto quella pasta che noi abbiamo detto che hai cotto nella pentola di carne, ma entro le 24 ore in cui è stato cotto precedentemente di carne nella pentola, quindi bushala tafshil toch 24 shot le bishula besari, entro 24 ore, allora per i poskim sefarditi, livnei sefarad, mutarbe di avada filo im halavi, a priori non va fatto, se tu ti rendi conto prima non lo fai, ma se fosse stato fatto, a posteriori, rimane permesso e puoi mangiarlo con il parmigiano, a filo in halavi. Anche se i poskim ashkenaziti sono più rigorosi e quindi gli ashkenaziti dicono che si può mangiare il latte dopo aver mangiato questa pasta, ma non insieme a questa pasta, non con il parmigiano sopra. Quindi puoi mangiare lo spicchio di parmigiano dopo, ma non insieme alla pasta. Invece, come ripeto, i poskim sefarditi sono meno rigorosi su questa cosa e dicono se io ho cotto la pasta nella pentola di carne che è stata usata per la carne, entro le precedenti 24 ore, non lo dovrei fare, però se non mi sono accorto e l'ho fatto, poi mi sono accorto dopo, rimane permesso e puoi mangiarlo anche con il parmigiano. Ok? Molto bene, la prossima volta procediamo con altre situazioni.